totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels. A ragged cup, a twisted mop, and the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning. Bien, quería del cambio. Non è sempre orfano dei propri destinati. Calzini e magliette lavate con cura e stese ad asciugare. Roba fresca di bucato che magari per un attimo, solo per un attimo, ha attenuato l'odore mancio di una cella che adesso sta a testimoniare la perdita di qualcuno. È un ventoso venerdì mattina e ancora prima dell'alba due auto si arrampicano per una stradina sterrata e sconnessa dell'Appennino. A bordo ci sono quattro poliziotti, un finanziere e un canantidroga. Stanno per raggiungere Monte Splendido. Proprio così, Monte Splendido, dove Aldo Bianzino vive con Roberta, la sua compagna, Rudra, il figlio, e Sabina, la madre di lei. Colline e montagne si inseguono tra campi coltivati, boschi, ruscelli, scarpate. Lì dove la strada scompare, c'è il casale della famiglia Bianzino, con lo stagno dei pesci rossi, i cani, i gatti, le galline, i panni stesi al vento. Aldo... Sono un artigiano, falegname e intarsiatore. Sono non violento, pacifista, egoista. Sono incensurato. Ma so anche di essere un soggetto attenzionato. Questo significa che i poliziotti quel giorno non erano diretti da me per caso. Forse la soffiata anonima di un cacciatore di frodo o di un cercatore di funghi. Gli unici che potevano supporre che lassù, tra quella gente strana, cioè noi, c'era qualcosa di illegale. La perquisizione disposta dal pubblico ministero al confine, nel senso che i poliziotti non faticano a trovare in un dirupo dietro casa, un centinaio di piantine di marijuana. La prendo qui proprio, dico. Questo mi serve per non finire tra le braccia degli spacciatori. I poliziotti avevano modi civili e non arroganti, ma andavano a colpo sicuro. A quell'ora Sabina, mia nonna di 91 anni, era ancora a casa. Dormiva. Più tardi fui a raccontargli cosa era successo. La quantità di roba sequestrata è ben oltre superiore ai limiti ammessi dalla legge per l'uso personale e prevede l'arresto in flagranza del delitto. Possesso e coltivazione di marijuana. Cinque parole, sufficiente a spalancare le porte del carcere. Quando i poliziotti mi chiedono di seguirli insieme a Roberta, io provo a spiegargli che la mia compagna non c'entra. Questo si vedrà in futuro, mi dice un finanziere coi baffi. E allora, io lì per lì ho pensato che per noi ci sarebbe stato ancora un futuro. Ho chiamato Roberta vicino a me e insieme a Rudra, sul piazzale davanti a casa, ci siamo abbracciati stretti stretti, per un tempo lunghissimo, eppure poliziotti facevano finta di nulla, ma sentivo che ci guardavano. Il loro imbarazzo mi ha dato speranza. Quella stupida speranza di credere che quella storia, malgrado tutto, avrebbe conservato qualcosa di umano. Cosa ci siamo detti in quei momenti è l'unica cosa che non voglio e non posso raccontare. Eravamo una famiglia unita, che voleva solo vivere felice e che non dava fastidio a nessuno. A un certo punto del viaggio c'è stata una strana sosta. La macchina con Aldo era rimasta indietro, non arrivava. Siamo stati fermi una ventina di minuti ad aspettare. Poi ci hanno portato alla questura di Città di Castello per le prime formalità e poi a quella di Perugia e infine al carcere di Capanne. E ormai era sera. Le visite mediche mi trovano in buone condizioni complessive. Nessuna allergia ai farmaci, pressione nei parametri. Un remoto episodio di ipatilea, erne di scariche e lungo sciatagia. Dichiaro di far uso di cannabis e li vedo scrivere calmo, lucido e collaborante. Vengo assegnato alla cella numero 20. Letto 2B. Decido di sistemarmi sulla brandina superiore del letto a Castello. Una scelta che faccio distinta. Mi sembra la meno desolante in quella desolazione. La notte l'ho passata strangolato dalla paura, ma l'ho tenuta per me. Ho saputo qualcosa di Aldo solo il giorno dopo, quando ho incontrato l'avvocato che gli era stato assegnato d'ufficio. Avevano già fatto il punto della situazione per chiarire le accuse in vista dell'interrogatorio con il GIP previsto per il lunedì successivo. Mi ha detto di averlo trovato in apprensione per me, ma tranquillo, almeno, come può esserlo una persona che ha appena subito lo shock dell'arresto. Aldo non gli aveva fatto il minimo accenno a problemi o intimidazioni subite dalle guardie carcerarie o da altri detenuti. Quello che resta della mia vita e della giornata lo passo in questi pochi metri quadrati. Alle 18 passa il detenuto di turno con un agente straniero che non riconosco e mi consegna il vinto. Mi ha chiesto se era la prima volta che gli ho detto sì. E allora mi ha fatto un gesto con la mano, tipo così, che mi ha rinfrancato. Ci siamo salutati, io sono rimasto con il cielo davanti, senza la minima voglia di toccare. La seconda notte in carcere è molto agitata. Due detenuti della vicina cella 18 dicono che per ben due volte, la prima volta verso mezzanotte e mezza, mentre la seconda volta è più tardi, hanno richiesto l'intervento del secondino, chiedendo del medico. L'unico capo di imputazione in cui questa vicenda è sfociata è a carico dell'agente Gianluca Cantoro. Egli avrebbe omesso di informare il sanitario di guardia che il detenuto Bianzino ne chiedeva l'intervento, affermando di sentirsi male. La sua richiesta di aiuto quella notte cade nel vuoto. Dormi! Ora non c'è nessuno, ne riparliamo domattina. Non ci sarà domattina. La Cristina di Aldo si è già capovolta e gli ultimi granelli di sabbia scorrono via veloci nel buio. Verso le 7 della mattina il detenuto rumeno Cosma Dan Marcel inizia il suo turno lavorativo di spazzino. Durante il suo giro tra vari reparti dice di aver visto Aldo nella sua cella, seduto sulla brandina, con le spalle addossate alla parete e le gambe rannicchiate. giusto il tempo di un'occhiata veloce, senza capire se fosse vivo o morto. Passa oltre e continua il suo giro. Nel frattempo, i due detenuti della vicina cella 18 chiedono informazioni sullo stato di salute di Aldo, ma vengono redarguiti in malo modo. L'addetto alla sorveglianza ne preleva uno dei due, lo conduce giù a piano terra, dove lo mette in una cella di sicurezza. Successivamente, dopo una presumibile strigliata, il detenuto viene ricondotto alla parte. Siamo già verso le 8 del mattino, quando due agenti addetti, giunti alla cella di Aldo, trovano il detenuto ancora disteso nel letto. Entrano dentro, provano a scuoterlo, ma Aldo ha già le gambe rannicchiate e gli occhi sbarrati. Ci sono alcuni particolari insoliti. Aldo, a parte una maglietta polo di colore blu, è completamente nudo. Aldo non aveva assolutamente l'abitudine di dormire senza slip, nemmeno a casa. È veramente difficile credere che abbia iniziato a farlo proprio in carcere. Circa un anno dopo, il giudice scriverà che non si può escludere che il detenuto, anche in ragione della peculiare situazione in cui si trovava, avesse preferito coricarsi in quel modo. Più che un'affermazione apodittica, ebbene, questa è una capriola del senso, un pareggio inutile. Lei fuma? No. Bene, lei non fuma. Però non si può escludere che lei possa fumare. Capite il punto di vista del giudice? Tutti gli indumenti vengono trovati appoggiati in modo ordinato sulla brandina. E poi, la finestra della cella, perché è aperta? Nonostante l'ora e la stagione. E ancora, i primi soccorsi non vengono prestati all'interno della cella, come logica e prassi vorrebbero, no. Gli agenti sollevano di peso Aldo e lo portano davanti all'infermeria, che però in quel momento è chiusa. Nella conciliazione generale non si trova chi ha le chiavi. E allora, piuttosto che riportare il corpo all'interno della cella, lo adagiano lì, nel corridoio, sopra una coperta. Davanti alle celle, per evitare la vista del dramma, agli altri detenuti vengono tirate su delle lenzuola, così, a mo' di sipario. Erano circa le 8:30 del mattino, quando fummo chiamate d'urgenza al reparto. Ricordo di essere sopraggiunta qualche istante dopo la collega, la dottoressa Vedovelli, la quale stava già effettuando le prime manovre rianimatorie. Il massaggio cardiaco veniva effettuato sul terzo inferiore dello sterno, mantenendo le braccia perpendicolari al soggetto in posizione laterale destra, esercitando la pressione senza mai salire sul corpo del detenuto. Non riuscivo a spiegarmi per quale motivo fosse stato portato davanti alla porta dell'infermeria ancora chiusa, dato che negli altri casi di assistenza ai malati l'intervento era avvenuto direttamente nella cella, e ne parlai anche con un'infermiera, la quale manifestò le mie stesse perplessità. E il bianzino stava sdraiato a terra, in posizione supina, con la maglietta alzata e privo delle mutande. durante tutto il tempo in cui sono stata presente, non ho assistito ad alcuna manovra traumatica in regione del fegato. Utilizzammo anche il defibrillatore, che però non diede mai l'input alla scarica elettrica, segno dell'ormai assenza di segni vitali. Tanto continuammo senza sosta il massaggio cardiaco, che durò più di 20 minuti, purtroppo inutilmente. Quando arrivarono i sanitari del 118, non poterono che constatare ufficialmente la morte. Erano le 8:30 di domenica mattina. Io ero detenuta, ormai da 2 giorni, a Capanne. Ero in cella con altre 2 donne. Alle 9:15 di mattina viene da me il vice comandante dell'istituto penitenziario. Salve. Buongiorno. Oggi è il mio giorno libero e stavo andando a caccia. Sono venuto soltanto per lei. Mi dica un po'. Aldo soffre di svenimenti? No. Malattie cardiache? No, ma perché? Ha ingerito degli ovuli prima di entrare in carcere? Ma no. Ma mi vuole spiegare cosa sta succedendo? Ci pensi bene. Perché Aldo è svenuto in cella. Che cosa? Sì, lo stanno portando in ospedale, è già intubato. Ma come intubato? Senta, noi possiamo ancora provare a salvarlo. Ma lei deve dirci la verità. Ma glielo ripeto, Aldo non ha preso nulla e non ha disturbi o malattie. La prego, mi dica cosa è successo ad Aldo. Lei verrà scarcerata in mattinata. Giusto il tempo di sbrigare le pratiche di routine. Buona fortuna. Ma senta, quando posso vedere Aldo? Penso non prima di martedì, dopo l'autopsia. Per 2 giorni i telefoni dei miei genitori sono rimasti spenti. Nessuno ci ha fatto sapere niente. Poi, la domenica pomeriggio, è tornata mia madre. Piangendo, mi ha detto che papà era morto. L'inchiesta per stabilire le cause del decesso viene aperta d'ufficio. A carico di ignoti. Ne è titolare il PM Giuseppe Petrazzini, lo stesso dell'inchiesta che ha portato Aldo in carcere. L'esito dell'esame tossicologico dopo l'autopsia è scontato, perché Aldo è un utilizzatore di marijuana. Meno scontato però è l'esito dell'esame anatomico. Ci sono infatti delle lesioni epatiche di indubbia natura traumatica. La prima è una lacerazione del fegato di 3,5 cm, che fa pensare ad un'azione intervenuta al massimo alcune ore prima del decesso. La seconda invece è una lesione a livello cerebrale, dove viene riscontrata la presenza di soffusione emorragica che fa pensare ad un quadro lesivo intervenuto poco prima del decesso. Ad agitare le acque ci sono le dichiarazioni del medico legale di parte ai familiari e ad alcuni avvocati, il quale riferisce di lesioni oltre che al fegato anche alla milza e al cervello e parla anche di due costole rotte. Egli afferma anche che Aldo possa essere morto a causa di colpi dati con una tecnica che distrugge gli organi vitali senza lasciare tracce esterne. Una tecnica questa utilizzata dai corpi militari. La relazione viene trasmessa al pubblico ministero, il quale però ha condotto delle indagini che non segnalano il minimo sospetto di aggressione al Bianzino. La morte sarebbe quindi attribuibile alla rottura di un aneurisma e ad una situazione patologica del defunto. Quanto alla lesione epatica, c'è ma è del tutto estranea all'evento letale. Si procede quindi ad una nuova ricognizione della salma. Dall'analisi dei due organi prelevati si arriva ad una conclusione completamente opposta rispetto a quella della prima autopsia. La morte è stata causata sì da un'insufficienza cardiorespiratoria, ma dovuta ad una massiva emorragia, come riscontrato nell'esame dell'encefalo. Tale emorragia, 9 volte su 10, è dovuta alla rottura di un aneurisma, che in genere avviene all'improvviso e senza segni premonitori. Il paziente accusa una forte cefalea alla base del cranio, detta colpo di pugnale. Però ci possono essere anche altre cause, come lo stato di stress psicofisico in stato di isolamento, oppure un trauma. Tra l'emorragia e il decesso sono trascorse dalle 2 alle 8 ore. Un tempestivo intervento forse gli avrebbe salvato la vita. Rimane però aperta la questione della lesione epatica. Alla richiesta di archiviazione del caso si oppongono Roberta e Rudra, adesso difesi dall'avvocato Zaganelli. È tutta l'istruttoria ad essere lacunosa, a cominciare dal ritrovamento dei soccorsi prestati. Il trasporto del corpo fuori dalla cella con l'indubbio effetto di sviare l'attenzione dall'eventuale ingresso di altre persone nella cella numero 20. Anche la finestra aperta lascia pensare che il pavimento dovesse asciugarsi per qualche precisa ragione. Non solo. In presenza di ipotesi di omicidio, la cella e gli oggetti non sono stati sequestrati. Non sono state disposte analisi tecnico-scientifiche atte ad accertare la presenza di eventuali tracce sul pavimento, sul cadavere, sugli indumenti e sulle lenzuola. Tutte omissioni ingiustificabili. Proprio per rivivere il momento dell'allarme e dell'emergenza, è stata richiesta l'acquisizione dei tabulati telefonici delle chiamate effettuate dalle guardie carcerarie, tabulati che non verranno mai acquisiti. Volevano farci credere con il loro nauseante linguaggio di ipocrisie formali che lo squarcio nel fegato di Aldo era dovuto al massaggio cardiaco, non alle percosse subite. Abbiamo incrociato i referti e lì appaiono evidenti le contraddizioni. È chiaro che bisognava archiviare in fretta quella che doveva restare una morte accidentale. Una morte accidentale. Una morte che inizia con un violento trauma addominale, con conseguente lacerazione epatica. Segue una crisi ipertensiva correlata alla paura. Quindi una sacca di un vaso arterioso cerebrale si rompe con l'aneurisma, quindi l'emorragia massiva e l'arresto cardiocircolatorio. Alla richiesta di archiviazione si oppongono anche Aruna Prem e Claudio Benzino, rispettivamente il primo figlio e il fratello di Aldo, i quali reputano inopportuno il fatto di aver affidato le indagini al nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria, ovvero ad un organo della stessa amministrazione che aveva in custodia il detenuto. Si richiede anche una accurata analisi delle riprese delle telecamere interne, dalle quali risultano numerosi spostamenti. Alle 20:32 del 13 ottobre, tra le celle 19 e 21 è presente un individuo in mimetica che si incammina verso i box. Chi è costui? Che cosa sta facendo? Nel registro entrata e uscita non viene notato nulla in merito. I fotogrammi successivi, dalle 22:34 alle 22:36, presentano una situazione allarmante. Il cancello della sezione è aperto e la porta blindata di una cella compatibile con la numero 20 risulta spalancata. Alle 22:46 si nota un agente nei pressi della sezione 2A che sta gesticolando con le braccia, tenendo qualcosa di non ben definito in mano. Tra gli effetti personali riconsegnati dal carcere c'è anche una maglietta polo di colore blu a maniche corte, con il colletto e con i polsini rossi, per nulla identica a quella delle foto scattate ad Aldo durante e nell'immediatezza del decesso. Viene fatta analizzare dal laboratorio l'ART di Carti, dove risulta che la maglietta è stata lavata o smacchiata con candeggina non ben miscelata d'acqua. Questa maglietta non è la sua e io non uso mai la candeggina per lavare gli indumenti. A sostegno delle violenze subite da Bianzino, oltre alla lacerazione epatica, c'è l'alta probabilità che sul corpo, nonché sul pavimento, vi fossero delle sostanze le cui tracce andavano eliminate lavando e lasciando asciugare il pavimento con la finestra aperta. Prima del Natale del 2009, il giudice decide nuovamente per l'archiviazione del caso. Secondo lui, i filmati a circuito chiuso non avvalorano la tesi di interventi esterni. Sembra mancare il movente per giustificare un'azione violenta nei confronti del Bianzino. Non solo perché era persona mite, taciturna e riservata, così da non poter dar adito a reazioni, ma anche perché non era al centro di trame occulte e depositario di informazioni che gli si volessero strappare con modi bruschi. Che fosse nudo, che la sua cella non fosse stata posta sotto sequestro e che sulla sua maglietta fosse stata trovata della candeggina, ebbene, non sono elementi che evocano alcun tipo di fattore causale e non consentono alcuna ricostruzione in chiave accusatoria, visto che non si dispone di un vero riscontro a tali dubbi. E allora io rispondo citando Chip e Chop. L'asilo in provincia di Pistoia ha finito nelle cronache per le violenze inaudite di due maestri su bambini innocenti. Anche lì mancava un movente. O forse pensiamo che la violenza gratuita di un uomo su un altro uomo perché è remissivo e pacifico non appartenga alla storia di questo mondo? Oggi mi alzo tutti i giorni alle 6. Arrivo fino a Pietralunga, a bordo del 950. E poi in Pullman, fino a Umbertide, dove frequento il terzo anno del liceo scientifico-tecnologico. Lo zio materno si è trasferito dalla Germania per vivere insieme a me, essendo morte nel frattempo anche mia madre e mia nonna. altrimenti forse sarei dovuto andare a vivere in collegio. Eravamo una famiglia unita, che voleva solo vivere felice e che non dava fastidio a nessuno. Non so cosa sia la giustizia, so solo che in suo nome qualcuno è entrato nella mia casa e nella mia vita e come un uragano si è portato via tutto e tutti. La giustizia è un vento. Hold on, honey, I'd like to say I'm busting out and breaking away. I'm letting you go like a hot horseshoe. I can't take another heartache from you. Think about how it's gonna be when you start back to needing me. When your dancing shoes have lost their shine, I'm gonna be gone in mine. I'm leaving now, I'm leaving now. Get out of my face, get out of my place, I'm leaving now. Adios, I'm leaving now. Every time it comes, when you trim the fat, feed the kitchen straps to the front seat cat. Bye bye, baby, when the bills come due, you might have to give up a jewel or two. Eat your heart out anyway, it's harder to head into cold as clay. It's all over now, you won't have me, your sugar daddy on your money tree. I'm leaving now, yeah, I'm leaving now. Get out of my space, get out of my face, I'm leaving now. Hey, I'm leaving now. pomeriggio le viene recapitata la sentenza definitiva della Corte di Cassazione. Una sola pagina e tre parole. Fine pena? Mai. Mia sorella resta in silenzio. Poi chiede alle guardie il kit da toiletta, dove invece del solito tagliaunghie trova delle piccole forbici di plastica, le uniche consentite in carcere. Dal lenzuolo taglia una striscia larga 3-4 cm. Poi aspetta. Fino alle 20:30, poco dopo la chiusura delle celle. Si arrampica fino alla finestra a bocca di lupo. Annoda un capo della corda alle sbarre. Poi si passa due giri intorno al collo, senza fare alcun cappio. Chiude gli occhi e si lascia cadere nel vuoto. L'unico modo per estinguere la sua pena era morire. Appena le agenzie battono la notizia del suicidio, sul web fioriscono i necrologi. Mentre i siti antagonisti rendono onore alla compagna Diana assassinata dallo Stato borghese e imperialista, qualcun altro scrive: la Blefari ha fatto quello che in una nazione civile, gli USA ad esempio, avrebbe fatto lo Stato. Mia sorella aveva un nome di battaglia, Maria, nella rinata associazione eversiva denominata Nuclei Comunisti Combattenti e poi Brigate Rosse per la formazione del Partito Comunista. Per i giudici ha partecipato all'organizzazione e alla progettazione dell'attentato di Marco Biagi. Secondo la procura bolognese, fu Diana a fare da staffetta, attendendo il professore alla stazione di Bologna. Lo vide scendere dal treno, salire in bicicletta, avviarsi verso casa. A mezzo radiotrasmittente, seguendolo in bicicletta, comunicò agli altri di prepararsi. Detenuta in alta sorveglianza fino al settembre del 2005, quando venne sottoposta al regime carcerario del 41 bis, Diana è condannata in primo grado a 9 anni e 6 mesi di reclusione dalla Corte d'Assise di Roma per concorso in banda armata con finalità di terrorismo e diversione dell'ordine democratico. L'ergastolo le era stato già comminato il 1 giugno del 2005, pena confermata il 6 dicembre 2006 dalla Corte d'Assise di Bologna per l'omicidio Biagi. A differenza degli altri irriducibili con i quali condivide la gabbia nei processi, Diana prova a difendersi e non revoca gli avvocati, anche se impedisce loro la difesa tecnica. Nel 2005 la neobrigatista Desdemona Lioce le scrive: la tua condotta è stata fin dal principio politicamente illegittima e lo sai. E se hai goduto del beneficio della critica, è solo in virtù del senso di responsabilità che abbiamo nei confronti di chi è sguarnito di insufficienti mezzi politici e dello stato fisicamente e mentalmente debilitato in cui ti abbiamo trovato. Il beneficio della critica te lo puoi tenere. Sono io che rivendico il mio diritto di critica e di veto. Sono da anni una militante associata all'organizzazione e se ho guadagnato un ergastolo non è stato certo per soddisfare i miei bisogni personali, ma per dare un contributo rivoluzionario partecipando all'azione Biagi, agli espropri e al complesso dell'attività. Per l'azione Biagi ho piene responsabilità personali, di cui vado fiera. E questo vale anche per gli espropri, cioè le rapine, attività primaria e necessaria nella costruzione di un'organizzazione comunista combattente. In qualità di suo avvocato difensore, chiedo una prima consulenza psichiatrica al dottor Cantarini del Centro di Salute Mentale di Orvieto. Diana ha iniziato da mesi ad avere comportamenti problematici. Arbibbia, in preda ad allucinazioni, ha distrutto un televisore. È dominata da un negativismo che non le fa assumere atteggiamenti utili alla propria difesa. Passa quasi tutto il tempo a letto, sotto le coperte, senza speranze e con propositi di suicidio. Un quadro di tipo schizofrenico, per la contemporanea presenza di allucinazioni e di un sistema di tipo delirante. Un quadro grave, ma curabile, peggiorato probabilmente con l'identificazione con la madre schizofrenica e morta suicida. So bene che nessuno vuole credermi, fermo escono dei mostri. Ho rifiutato il colloquio con mia sorella e con mio padre. Ma anche il vitto del carcere, perché so con certezza che è contaminato da farmaci e sostanze velenose. Diffido delle compagne di cella e ne ho tutte le ragioni. Sono la vittima predestinata di un complotto ordito da Massimo D'Alema. Lui mi vuole morta. Perché? Chiedetelo a lui. Lo dico sempre. Anche agli avvocati della difesa, lo so che vi manda D'Alema. Siete contenti adesso che mi avete fatto diventare pazza? Al carcere dell'Aquila le anomalie comportamentali di Diana si sono accentuate. La prima volta che l'ho chiamata a colloquio non ha nemmeno risposto. Così mi sono dovuta recare nella sua cella. Buongiorno, mi chiamo Claudia Montanelli e sono una psichiatra. Sono qui per parlarle. Ha voglia di parlare con me? Vattene. Nel gennaio 2006 viene mandata per un periodo di 30 giorni al carcere di Sollicciano. Ha distrutto due televisori e altri suppellettili. Rifiuta di incontrare i medici, i psichiatri, i legali, i parenti. Reitera atteggiamenti di aggressività nei confronti delle guardie carcerarie. Quella puttana di mia sorella mi tradisce. Perché se la fa con un carabiniere, la troia. I miei datori di lavoro mi hanno offerto un impiego soltanto per controllarmi. I giudici hanno falsificato le sentenze. Le guardie mi avvelenano i pasti. Per i primi 10 giorni accetta solo frutta, pane e a volte la colazione. Poi inizia a utilizzare la spesa interna per acquistare generi alimentari, dolci soprattutto. Prodotti per l'igiene personale, giornali di enigmistica, una radio con le cuffie. Fa qualche esercizio di ginnastica, chiede e ottiene di fare la doccia con regolarità, fa il bucato, tiene ordinata la cella, guarda la televisione, più che altro l'ascolta dopo averla ricoperta con un panno, mostrando interesse per i notiziari. Si rilassa facendo un solitario, con le carte da gioco che si è costruita da sola. È un lieve progresso, perfino l'aver ricominciato a fumare, uscendo sul terrazzino della cella. Però dice no anche a un futuro incontro con il padre. Sono questioni di famiglia che non vi riguardano. E poi posso fare a meno dell'amore. Non cambia niente nelle mie decisioni. Gli elementi psicopatologici rilevabili non sono sufficienti a ipotizzare un trattamento sanitario obbligatorio. Passiamo del parere che la detenuta possa essere presa in carico da un carcere ordinario, purché dotato di un servizio psichiatrico atto a garantire una precoce cura e la tutela della persona. Diana torna in carcere, all'Aquila, dove oltre all'autoisolamento l'aspetta il regime di 41 bis, sbrigativamente definito carcere duro. Conviene ricordarne i tratti salienti, a partire dal trasferimento in prigioni lontane dalla propria regione di residenza. Un solo colloquio al mese con i familiari, della durata di un'ora, e attraverso un vetro alto fino al soffitto, è la sola possibilità di parlarsi attraverso un citofono. Impedito qualsiasi contatto umano, impossibile telefonare o scrivere lettere agli altri detenuti, neppure se congiunti. Limitazione delle ore d'aria e degli spazi. Celle singole, con finestre a 3 strati. Le sbarre, una fitta rete e infine una tapparella che impedisce aria e luce. E la possibilità di ricevere 2 soli pacchi postali al mese. Vietato tenere radio, registratori a cassetta, compact disc. Non più di 2 coperte. Vietato l'utilizzo di fornelli per riscaldare. dare bevande o cibo. Più che accentuare i sintomi per chiedere aiuto, Diana tende a nascondere la propria malattia, rifiutando qualsiasi contatto. Occorrerebbe la collaborazione di altre detenute, di medici, psichiatri, anche per avviare una terapia farmacologica di tipo criptico, ossia la somministrazione di farmaci attraverso il cibo. Condizioni queste praticabili nelle sezioni di massima sicurezza di Repubblica Latina, dove scontano la pena altre detenute per reati politici. Diana viene trasferita a Rebibbia, in una sezione con altre politiche della stessa organizzazione criminale. In cella trova Laura Proietti, che accetta di prendersi cura di lei. La convivenza all'inizio sembra dare buoni frutti. Diana ricomincia a leggere, a disegnare, sembra più calma, più lucida. Ma la quiete dura poco. A forza di sentirmela vicina, ho capito che Laura è mia sorella. Per questo voglio, anzi, esigo che le venga fatto il test del DNA. E so anche che mia madre è viva. Si nasconde in una delle celle e prima o poi uscirò a trovarla. Ogni volta che io e mio padre andavamo a farle visita, ci chiedeva dove fosse andata mamma. Diceva di sapere che era viva. E se solo provavamo a farla ragionare e a confutare questa sua fissazione, si rifiutava di vederci per dei mesi. Dalla primavera poi smise di alimentarsi, al punto che la direzione del carcere di Rebibbia mandò una sollecitazione al responsabile per i detenuti in 41 bis, dicendo che la detenuta era a rischio di vita. E invece fu rimandata di nuovo a Sollicciano. Viene chiesto lo stralcio del processo per incapacità processuale. La Corte d'Assise d'Appello di Roma incarica il professor Marasco affinché valuti se l'imputata può o meno partecipare consapevolmente al procedimento in corso. Del collegio fanno parte anche il dottor Coppotelli per la difesa e il professor Marasco per la Procura Generale. Al primo incontro fissato, Diana non si presenta. Ci siamo spostati noi nella sua cella. La detenuta era coricata nel letto, completamente coperta dalle lenzuola. Le abbiamo descritto le finalità previste dall'indagine, ma lei, scoprendo il capo, ha ribadito il suo rifiuto alla perizia, in termini molto decisi, ma garbati. Poi abbiamo riprovato dopo una settimana. La dottoressa Michetti, la psicologa del carcere, ci ha confermato il preoccupante stato di salute della detenuta. È affetta da una forma psicotica, paranoica, con attacchi di aggressività che l'hanno portata a tirare addosso alle guardie degli oggetti. Ha ricominciato a mangiare dopo un digiuno di quasi 20 giorni, temendo l'avvelenamento dei cibi, compresi quelli portati dai familiari. È per questo che prima ha preteso di siglare tutte le confezioni dei succhi di frutta e poi ha gettato nel cestino tutta la frutta che le aveva portato la sorella. Quando siamo entrati di nuovo nella cella, invitando Diana sotto forse la perizia, lei da sotto le coperte, senza nemmeno alzare il capo, ha risposto no. Pur presentando un evidente pallore cutaneo, è apparsa lucida, vigile e cosciente. Non è vero. Non è vero che non volevo essere curata. Stavo male, lo sapevo. Ma non potevo fidarmi di nessuno. Il sistema era congiurato contro di me. E in carcere mi sono resa conto che aveva molti più tentacoli di quanti ne avessi immaginati. Ero sempre più sola e sempre più debole. Qualunque cosa sia un sistema, è molto efficace nel sopprimere chi come me non è allineato. Non sono un'eroina, non sono Giovanna d'Arco, non sono Rosa Luxemburg. Sono il soldato semplice di un esercito che non esiste più. che non è mai esistito. Che mai esisterà. Il professor Marasco risponde al quesito della corte. Nonostante il quadro psicopatologico attuale e il recente comportamento di rifiuto dell'alimentazione, ritengo che la Blefari sia capace di stare e di interagire nel procedimento penale che la vede coinvolta in corte d'assise d'appello. Un suo eventuale comportamento oppositivo non andrebbe letto come sintomatico di una infermità di mente. Bisogna ricordare che si tratta di un esponente del terrorismo fortemente ideologizzato, che esprime una forma di aspra lotta allo Stato, al sistema e alle istituzioni. Invece per Coppotelli, perito della difesa, Diana è affetta da disturbo delirante, con schizofrenia di tipo paranoide, in forza della quale, dal punto di vista medico-legale, non può essere considerata capace di stare in processo. Malgrado queste conclusioni, il processo va avanti e il 41 bis non le viene revocato. Torna a Sollicciano, è il gennaio 2006, e questa volta, a sorpresa, Diana si mostra più collaborativa. Diana ha accettato di incontrarmi e mi ha rivolto due richieste. Essere isolata dalle altre detenute perché non sopporta la rumorosità di fondo del reparto e non essere più trasferita. Avere cioè una collocazione definitiva nella quale poter trascorrere la propria lunga pena, il trattamento da 41 bis e finalmente trovare pace da qualche parte. Lei dice che la detenuta è disponibile al colloquio. Poi afferma che questa disponibilità è scarsa a tal punto da non poterne sondare le attività cognitive più profonde. Non credo si debba sopravvalutare l'attuale e superficiale equilibrio mostrato da Diana. I pazienti schizofrenici si differenziano da quelli paranoici. Tipico del paranoico è quello di avere un atteggiamento omologo alle persone normali. La patologia della Blefari si manifesta in maniera fasica, come in alcune psicosi cicliche e nella paranoia. La decisione di non addolcire il 41 bis non tiene conto delle relazioni sanitarie, ma vuole solo dimostrare la pericolosità della detenuta, ignorando il lasso di tempo passato e le deteriorate condizioni psichiche che le hanno fatto richiedere contatti con tutti, a cominciare da se stessi. Quali altri rapporti si vogliono recidere a Diana Blefari? I nostri incontri erano di tre tipi. Il più delle volte erano scambi di poche sillabe, con l'incapacità quasi insormontabile di andare al di là di qualche semplice battuta. Altre volte Diana si chiudeva in se stessa, rannicchiandosi in silenzio, e allora era un mio monologo. Altre volte scaricava su di me una rabbia senza freni, e allora erano solo insulti e maledizioni. Fatti! Ulteriori episodi contribuiscono a peggiorare la situazione. Un ispettore della guardia carceraria le sequestra un lavoretto in maglia che Diana effettuava mediante degli stuzzicadenti per unire piccoli fili di cotone fino a una lunghezza di 180 cm. Poi il mancato colloquio con i suoi parenti, previsto per il 2 dicembre. Quel giorno, a causa di un'ispezione ministeriale, tutti i colloqui sono stati annullati. Ma l'imprevisto è sufficiente a farla accusare i parenti di tradimento. Da quel giorno rifiuta colloqui, pacchi, cibo, perfino i soldi portati dai parenti. Trascorre l'intera giornata a letto. Il 26 settembre del 2007, il ministro della giustizia, Mastella, rinnova il 41 bis per la Blefari. Troppe le iniziative a sostegno degli arrestati neobrigatisti in Italia e all'estero. Secondo il ministro, a fronte di tale ondata di consensi, il mancato rinnovo dell'articolo 41 bis per la Blefari potrebbe essere interpretato come un attestato dell'efficacia della campagna di solidarietà in atto. Ormai Diana è lontana da tutto. Figuriamoci da sentenze, ricorsi, codici, interpretazioni. Una mattina di maggio, nella sua cella di Rebibbia, inizia ad urlare, senza un motivo apparente. La vigilante Rosaria Mattà viene presa dai capelli, gettata a terra e colpita con dei calci, e due detenute riescono a fermare Diana, in preda ad una crisi di furore. Alla mandala verranno riscontrate una distrazione dei muscoli del collo e una contusione. Scatta una denuncia. Diana viene valutata in grado di comprendere le condizioni del processo penale e ritenuta socialmente pericolosa per i suoi precedenti. Intanto, una volta al mese viene deciso un incontro con il suo ex fidanzato, Massimo Papini, autorizzato dal direttore del carcere in considerazione della gravità delle condizioni di salute di Diana. Caro Massimo, non ce la faccio più a stare qua dentro. Voglio parlare con i magistrati. Aiutami ad uscire. Giuro che esco e mi ammazzo. E vi libero per sempre della mia persona. Ma io non ce la faccio più a stare in questo lager. Devi dire a tutti che io mi sono pentita. Che tutto quello che vogliono, io lo faccio. Se vogliono che mi cucio la bocca, te la cucio. Se vogliono che parlo, dico tutto quello che mi dicono di dire. Ma io non ce la faccio più. Non so che cosa fare. Chiedo perdono a tutti. Chiedo perdono a tutti. Basta. Basta. Basta. L'accoglimento delle richieste di cure non avrebbe eluso l'espiazione della pena, ma solo consentito la sospensione temporanea del processo e il ricovero presso strutture psichiatriche fino al miglioramento del quadro clinico. Non c'è stato il tempo, e forse nemmeno la volontà, di favorire la sopravvivenza di mia sorella e probabilmente una sua visione più consapevole di quei drammatici delitti. Diana non era certo una rivoluzionaria militante cresciuta con il mito della violenza e della lotta politico-ideologica. Era una persona fragile, spezzata dall'incapacità di superare il suicidio di nostra madre, avvenuto dopo anni duri, con continui ricoveri, timide riprese e brusche ricadute. E forse non ce l'avrebbe fatta nemmeno fuori dal carcere. Diana era accusata di un fatto di sangue ingiustificabile. E sono convinta che dovesse espiare la sua pena, ma per quanto effettivamente commesso e non per quello che avrebbe potuto commettere. Io so bene in quali condizioni fosse mia sorella, soprattutto durante la carcerazione. Lo sapevano benissimo le istituzioni politiche e carcerarie a cui ci siamo più volte rivolti, politici di ogni schieramento, che hanno presentato mozioni e visitato Diana in carcere, magistrati, giornalisti, direttori dei penitenziari, per non parlare del personale carcerario che ha vissuto a contatto con lei. In 6 anni non siamo riusciti a trovare un notaio disposto a farle firmare una delega patrimoniale, quanto fosse chiara la sua condizione di incapacità. Io sono convinta che la giustizia, nel suo corso, non debba mai rinunciare ad essere onesta, libera e possibilmente coraggiosa. In nessun caso si può pensare di perseguire la giustizia praticando un'altra ingiustizia. È vero che impietosirsi al punto di rovesciare le colpe tra vittime e carnefici è il massimo dell'ingiustizia, ma è altrettanto vero che la pietà, per fortuna, segue sentieri diversi, più tortuosi, ma insieme più lineari.